se la morte è sempre padrone lui, un domani che muore lui ha già fatto le divisioni. Sì, gli è stato bene i figli, hai capito. Infatti credo non stiamo lavorando in quel supermercato come amministratori di lì. Stanno bene, sta tranquillo che per tutta la vita hanno poco lo stipendio, ogni mese ci hanno nipoti, figli, stanno bene tutti lì. Beh, già non credi, ti credi che c'è un scemi che vendevano tutto così, ma scherzando sta. Poi hanno dato in affitto il locale, però lì in mezzo ci sono anche loro, anche se hanno ritirato il nome di loro. Già ci sono sempre sotto, ti credi che sono scemi qui? Già lo so. Hanno fatto il coso, hanno dato, come ha fatto la stessa identica cosa che ha fatto, come si dice, Muntula, tale uguale, che il capannone è roba sua, l'ha data solo in gestione e basta, e il bar l'ha lasciato al figlio, il viene Paolo Thomas, che infatti il figlio si è sposato con una dipendente. E allora mica hanno venduto i locali, perché scemo, ma lo sa il valore che c'hanno il locale di Piazza Fiume, il locale di Via Mendola, il locale di Via Granci, i rigapannoni vicino a Cannata, ma stiamo scherzando, quella è tutta roba di loro. Sì, già lo so, già stanno bene, aspetta, telefono un attimo. Ehi, ogni mese riscuotono gli affitti, non hai compreso? È la percentuale della roba dei negozi che vendono, che si chiesa un macchi. Lei oggi è caduto, sì. No, non sono caduto, adesso qua. Ti pare che ci vendono tutti quei locali, non sai il valore che c'hanno? Già lo so il valore che c'hanno, e cosa vuoi fare, per carità. E tipo Salisi, anche se non c'è il locale, le ha viste, gli ha affittati una parte, e cacciani di nano, hai compreso? Ho capito. Meglio per loro, sono contento per loro. L'uomo va poi su una vita a crearsi tutto quello che ha lasciato, ci ha saputo fare, allora ci faceva i soldi, il cervello ci voleva per fare quello che ha fatto. Purtroppo, non sono più tempi di aprire negozi e bar e nulla, con la crisi europea va, poi cazzo va, chiudi, oggi apri e domani stai chiudendo. Oh, oggi non fa più, ma stai scherzando, innanzitutto vuoi più lo Stato, chi guadagna lo devi dare lo Stato, devi travagliare gratis in tu, non hai compreso, non ti... Ti hanno messo in condizione di non poter guadagnare niente. Lo so. Fai la prova, ci vai che su giù. Apri un locale. Ti ne mangiano i burghici di là e andi subito in fallimento. Non conviene più. Oggi conviene andare, usare fino a casa un travaglio, fisso. Travagliare in campagna, quello che pianti e cresce ti lo vende a nero e sei a posto. Giustamente, anche quello è vero. A chi non conviene ne manca regalare frutti e verdure, a chi ti veglia i barugotti e ti strangolano, ti danno i due citti, dopo che ti se lo vendono a prezzo pieno. Non sai che è così, lo paghi in una maniera, glielo dai una maniera e se lo prendono all'altra maniera. E lo facciate guadagnare, nulla. Ma la va bene al televisore, a quelli che portano la frutta, le verdure, a quanto gliela pagano, a una miseria il coltivatore, dopo che ti hai fatto il culo, lo dai allora a una miseria, a te a 2 centesimi, 3 centesimi, tu vai frutta e verdura e lo trovi a 1,50 euro, a 1 euro, a 2 euro, ma ce l'hanno lo sgoppo, eh? Non lo sai, purtroppo. Fate così. Dopo che ti fai del culo a casa in campagna, dalla mattina alla sera, a cazzo, si attende e si appende. E la poi fa che cosa? Fa nulla. E tanto vale, uno si mette nel marciapiede e si lava indietro. Quello che guadagna almeno è tutto tuo. Lo vendi più poco della frutta e verdura e ci stai bene lo stesso. Intanto tu se lo porti la frutta e verdura ti rubava 2-3 centesimi. Tanto vari. Me lo vendi a 1 euro e tu va me lo guadagno. Giustamente, lo dico io, adesso no. Adesso ma senso di cazzo di pietole, quelle pietole. Adesso faccio il quadro di pagare. 3,50 euro. Già se le fanno pagare una marca al sud, adesso non mi ricordo se io li avevo presi a 1 euro il mazzo in frutta e verdura. 2 mazzi li ho bolliti e non c'era niente. Perché già lo sai che torna a niente. 1 euro in campagna lo sai quanto vinnaggio. E non me la posso da campagna e me la vendo io. Io la sera sono uscito a farmi la passeggiata, no, e mi ho portato un paio di buste. E non ho arrivato, cazzo, quasi 2 buste piene. Ah, però me l'ho lavata tutta quanta e messa a cucinare. Ma però me l'ho anche mangiata io, però. Vedi, c'è quella adesso che è il periodo, la fai. E ti narreghi 2 borsoni, bella pronta, la leghi, ti compri un rotolo di quello spagoffine. Fai i mazzi presa poco, quasi uguali, e ti metti fuori del supermercato. Allora sai come te la comprano subito quella roba? E ti rivende a 1 euro un mazzo. Subito ti rivende, ti compareggiano le donne che entrano al supermercato. E ti fai di dinano, hai compreso. Però non ce la faccio, ma dalla settimana prossima comincio a farmi la passeggiata e se vuoi pietole me le taglio, me le porto 2 borse e vado e me le taglio e me le preparo. Da voi un po' farmi. Ehi, fai mazzetti, fai che oggi le raccogli e stasera ti prepari tutti i mazzi. Li bagni, come faccio io in campagna, li bagni, poi l'indomani mattina ti poni vicino al supermercato, poni una gaccetta, 2 gaccetti, una, ti poni lì, c'è una girata, ne poni 4 siccumazzi sopra, con un pezzo di cartoncino scritto 1 euro il mazzo, guarda come ti diri con pareggia, subito, ma come mezz'ora ti durano. Vabbè dai, grazie, ci sentiamo dopo, devo fare cosa, dai, ci vediamo più tardi, dai, ci sentiamo. Ehi, ciao, ciao, a più tardi. Ciucu, ciucu, ciu. Beh, ciucu, ciucu. Leoncino ha chiuso, sta facendo cosa? Sta la mungendo, Leoncino, sta. Cosa hai detto? Ho detto, sta la mungendo. E allora, la giuri tu. Andiamo a fare bietoli, fate di mazzetti e si rivende a 1 euro e si fa di gridina. Sì, se per questo può andare la cosa, dato che è motugo, si presenta ai figli fra un paio di giorni, li passa il curriculum, gli chiede se lo prendono a lavorare. Può anche chiedere, ma dico, se fai mazzetti di bietole selvatici, ma sai come ti rivedi, vieni a Ralfani subito, si mette vicino al supermercato, lì 2 cassettine, si fa subito il soldo. Già lo so, ma come che lo vede, vendendo la roba così, di solito in via Brigata Sassi c'è quello che vendeva ciocchetta, tutti gli orsi, già lo sai. In casa perché qui vicino a casa Gian Maria, lì alla coppa, non si mettono. Una lì vede un pizzino, cosa va via? Ah, va via mandarini, clementini di campagna sua. Ci aveva il cofano aperto, a cantare dietro l'ha imbiddata la macchina, si è fatto ritirare. Li vende più poco del supermercato, se li ha subito venduti. E deve avere anche il peso per pesare, se no qualche altro fa pesare. Io il peso, quello che usavano gli antichi, l'ho regalato, quello che si appendeva in qualsiasi posto, la prendevi, tac, e sapevi quanto pesava la roba. Hai già regalato questo. Male è fatto, quella era bella e poi funzionavano bene, sono perfetti. No, c'aveva un peso di quelli di cucina da 5 kg. Sopra c'era un cestinetto di due etti, faceva 1,2 kg ed era 1 kg. E tribunia era buona, tanto un iguri. Quello l'ho regalato a Marino, quella fare lì. Tanto non ne facevo niente, era in garage, se no ce lo buttavo. Sono fatto dare due portate di VHF marini e ce l'ho qua a casa. E cosa gli hai detto a Marino? Il peso? Eia, quel peso là, l'ho detto, quel peso in rame, quello per pesare, in rame, quello usavano come si dice, all'antica. Lo appendevano e pesavano la roba così. Bello scemo, lo davi a me quello lì già mi serviva, io già lo uso. Quello era il migliore, il più giusto è quello. E vabbè, mi servono i portatili, ce li ho. Poi mia, c'è anche un VU, addirittura della Kenwood, quello me l'hanno regalato. Portatile, bellino, fa che le PMR fa, addirittura, arriva fino a 500, ma non va. Oh, e dopo ce li avevi, magari. No, me l'ha regalato un amico, me l'ha regalato, capito? Mi ha telefonato, me l'ha regalato, mi dice vieni che mi ti sto portando il portatile, te lo aggiusti, mi ha detto, ho preso, l'ho dato la pulita alla tastiera ed è perfetto. Devo solamente adesso collegargli i due fili della batteria per avere la tensione direttamente dalla batteria e sono a posto. Allora, con l'alimentatore esterno funziona benissimo. Oh, e funziona bene, ma l'hai già riparato. Ehi, ha due frequenze fa, dual band. La V da una parte e la U dall'altra, oppure tutti e due U. Mi fa anche la transponder addirittura. Ah, è funzionato, lo fa funzionare con l'alimentatore. Buono, questo non stai con la batteria, è buono. E ce l'ho conservato qua. Ce l'ho qua a casa, ce l'ho conservato. Messo da parte. Quando vengo me lo fai vedere. E vabbè, te lo faccio vedere quando vieni, non c'è problema. Tienilo che già, me lo fai vedere. Se funziona bene. Va bene, va bene. C'è anche la luce per illuminare la notte. Per sapere in che frequenza sei. Ah, funziona bene già, l'ho sistemato. C'era solo da pulire e basta con la cosa, la tastiera. Ehi, quando mi avvicino me lo fai vedere, funziona con l'alimentatore e così lo stacciamo a batteria. Me lo fai vedere quando vuoi. E già non c'è problema per quello. Ehi, aspetta un attimo. E che marca è che? Ehi. Che è buono la fine. Ma cosa c'è l'antennino piccolo? Sì, c'è l'antennino con l'attacco BNC piccolo. Grosso ma piccolo. Ah, ho capito. Ehi. E beh, non lo puoi provare, No, non c'ho l'attacco BNC, c'ho l'attacco, già lo sai, del coso io. Quindi non posso provarlo. E come fai a provarlo? Solo con la tenengo ma posso provarlo, però devo impostarlo, il discorso è quello. Devo cercare come si chiama per dargli le impostazioni che non le capisco una fanculo io, già lo sai. Finché è una questione di memoria già fatto come i Boafeng è un discorso, l'altro della tastiera. Ne ha poche di funzioni. Ah, e allora di fare la ricerca del PMR, scusi. L'altra volta ho fatto la prova, ho messo la frequenza PMR canale 7 e già c'era 446 081 25, era perfetto, sentivo e anche in trasmissione andava. Ma cosa c'è il display, lo stesso dei canali? Doppio display di frequenza c'è, non di canali, frequenza, cioè la frequenza ci segna la frequenza V da una parte e la frequenza V dall'altra, c'è il doppio display. Ah, per questo metto io mi segna due frequenze nel display, una su e un'altra. Ho capito, non ho avuto una cosa del genere io che faceva, l'avevo regalato, faceva tutte e due frequenze, faceva la trasponder, non mi ricordo che diavolo l'ho fatto quello là. Ah, forse ne, non mi ricordo se era Natalino, non me lo ricordo adesso. Io qui schiacciassi mi accendo la frequenza di trasponder, o se no lo rischiaccio e risalissi alla questa frequenza e posso ascoltare sia una che nell'altra. Me li tengo di coso e poi c'ho quelli V, cioè gli, come si chiama, gli ESU 2 metri, l'FT441E fa tutta la frequenza marina fino a 170 e qualche cosa. Ma quelle frequenze non vengono più via, le fratelli non gli dici la figlia e non vengono mai un cane. Per la barca vanno bene, qualcuno che c'ha la barca, capito? Se lo porta, lascia in barca quello che c'ha, e l'altro se lo porta a passeggio, per dire se va in spiaggia, cose del genere. Cos'è, un cagnolino? No, se lo mette nel fianchetto, non è un cagnolino, mica mi mette il guinzaglio, ciao fra. Ciao Antonio, mette il guinzaglio e vai a passeggio. No, quelli vanno bene se c'hai, per dire, qualche femminile in stazione fissa in barca, per dire che esci in barca, te ne vai in qualche spiaggetta lì, cosa ne so, a sentire dove si può provare, oppure se ti fanno andare all'asinara te lo porti a passeggio e sei in comunicazione con la barca, non è un problema, lo puoi utilizzare, capito? Di certo non puoi utilizzarlo così a Sassari, no, in stazione fissa, non ti vuole in galera. E allora, no, io ho trovato uno di quelli, il bianco, che l'ho acceso a tutti i canali, tutto zero, tutto zitto, e gli ho detto la lascia verde, l'ho preso, l'ho smontato lì, ho tolto il microfono e sopra il buttaccio. Quello è Ray Jefferson, quello che stai dicendo tu. Non lo so, aspetta, che ce l'ho qua, ce l'ho, aspetta appena che vedo un po' cosa, che marca è. Allora, no, è un Ico M25D. Ah, pensavo che fosse Ray Jefferson, di solito si usavano quelli bianchi con la tastiera frontale, la tastiera era grigia addirittura, nel portatile, e arrivava fino alle, c'aveva le frequenze, non ricordo se si era scritto M1, M2, M3, no, cosa c'era. Quelli li ho avuti, quando lavoravo a Marcomichi, sai quanto ne ho salvato di quelli, c'erano pochi di quelli buttati, ce li stavo a buttare, è arrivato, aspetta che ci penso io, gli ho detto, e avevo tutti messi a posto, uno per uno. Ecco, questo, ti ricordi, diciamo, la manopola, come ce l'aveva la, come si chiama, quei vecchi proprio, che girava la manopola e c'erano i numeri ci illuminavano. Ah, di quelli modello vecchio, Già ho capito. Uno di quelli, non si va nulla, non si, me l'hanno dato così, accende tutto, si sente che dà la trasmissione, però non si sente mai nessuno, in qualsiasi canale non c'è mai nessuno, tutti i canali che c'ha lui. Uno di quelli l'ho regalato a coso, a fratello di Giuseppe l'ho regalato, un 16 canali VHF, c'aveva solo un canale che c'aveva, col quarzo, era tutto quarzi era, cioè tutto quarzi, quarzi vabbè, c'aveva solamente uno e basta, gli altri mancavano tutti. L'ho regalato a lui per mettere grigio, era quello che gli ho regalato io. Ecco, questo arriva sino a 28, a 28 canali, arriva, sino a 28. Petro, lo sai che non l'ho aperto a vedere se c'ha il quarzo. Ti conviene aprirlo, vedrai che ci mancano i quarzi là dentro. Magari c'è solo un canale e tutti gli altri quarzi mancano. Mi sono fatto il conteggio dei quarzi, gli ho detto se compro 16 quarzi, detto, mi costa più di comprare il Baofeng. Aspetta, che gli tocco coperchio a vedere. Sta tranquillo che gli ha commettuto il cuoio, c'è solo un canale quell'apparecchio. E gli mancano i quarzi, ecco perché non sentivi nulla, sentivi solamente il fruscio e basta. Così quello che gli ho regalato io a Nicco. Mettetelo da parte, gli ho detto, poi se mi capita gli ho detto di trovare, gli ho detto dei quarzi, gli ho detto te li piazzo così te lo utilizzi, gli ho detto di riserva, te lo piazzo a casa, gli ho detto. Perché lui c'ha la barca, capito? La barca a vela c'ha. Ma non per nessuno mai quelle frequenze. È morto. Già ci sono, già, ci sono i pescatori, la notte, poi c'è il 16, il 26, qui servono sempre, capito come per la questione del meteo. Serve sempre il VHF, vabbè che se stai affondando stai tranquillo, fai prima col telefonino. Ah, io mi ricordo da qua, tanti anni fa, nella 27, la notte sentivo dei pescatori da Alghero e ci parlavo anche. Solo Alghero li sentivi, perché quelli di Palottore, se non hai visto, c'hanno la mantova piazzata ancora. La mantova in punta a me, piazzata sopra, come si chiama, casa poco usciva lo forte. Li sentivi tranquillamente da oltre la Sirara a parlare, per dire, dopo Castel Sardo. Dov'è? Eia. Non è a quarzo questo? Non è a quarzo, nulla, allora PLL, è strano, non senti nulla. Sì, neanche un quarzo c'ho, figurati. A PLL proprio, non c'è niente. Che strano, dovresti controllare che frequenza fa allora e ci arrivi subito. Strano che sia solo 16 canali, che non si possa espandere. Penso che si possa espandere, perché io l'altra volta mi è capitato uno di quei 43 mega che usavano i tassisti qua a Sassari. Gli ho fatto due punti, li ho raggiunti. Cazzo, sai come è salito di canale? 900 canali sopra e 200 canali sotto. Ho controllato con frequenzimo, ci usciva fino a 50 e passa megas. Non lo so. Quando salgo te lo porto. Poi te ne fai così bianco. Tanto, lo stavo buttando, lo stavo. Non me ne faccio niente io. Non ci capisco niente su quella roba lì. Va bene, dai, ciao Antonè, ci sentiamo che devo uscire, che mi stanno chiamando. Ciao anche a Graziano, ci sentiamo alle prossimine, magari più tardi. Ciao Fra, già ci sentiamo. Va bene, quando vuoi salire già sono a casa. Mi chiami già so che no. Tanto già sei qua vicino che lavori, non è che... c'è la sede qui. Capo, dai. Quando salgo... prima di venire da te già ti faccio una bassa. Già ci sentiamo. Ciao grazie. Ciao Franco, buon proseguimento in serata. Alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Fra, ciao. Alle prossime. Ciao Marina dormita e invece. Chissà cosa ha mangiato oggi Antone. Aveva mangiato funghi. E allora, avanti a Pastanazzi, l'Urizzo, fratelli Gira, avvolgendosi l'ubero di La Banta, non si fai la treccia. Magari in campagna, capito, andare a vedere come sta. La campagna è un casino, se non ci vai a... deve sempre passare la moto zappa, i 10 spugliatori, ui. Io ce l'ho, guarda, se l'avessi avuto in un altro punto ci sarei andato tutti i giorni, ma nel punto dove vai te ne scende anche la mazza, cioè nel senso, ne scendono anche le braccia, perché già pascolo brano, capito? Anche se tu per dire passi la moto zappa, pianti e cose del genere per metterti qualcosa, per mangiarti qualcosa, passano i ladri e si caricano la busta di roba. E beh, se sulla strada non andava bene, e poi se non vedono a nessuno tu pianti, è logico che se la butta. Magari recensione non ce n'è. Non ce n'è, no. E poi anche se la faglia lo sai, entrano dentro. Oh, Iuia. Quindi no. L'abbiamo lasciata così com'è, se la abbia in culo, non devo stare a perdere tempo, si è abbandonata da un bel po' di tempo, sarà un rudore che sta accadendo, cosa ne so io. Ma l'erba la dovresti tagliare, anche magari poi al tipo, se sei calcone in buco, da più fanno la punta. E hanno già messo fuoco una volta, non è successo niente, meno male. Non ti preoccupare, non ho messo mica io fuoco, ha messo quell'imbecille che c'era prima. Adesso quello non fa più niente, lì ci ha messo la roulotte, ci ha messo il tenere del suore, quindi. E lui abita, cosa, non sta più lavorando, non sta più facendo niente. Abita a Via Ugola Malfa lui, gli hanno dato la casa popolare, figurati. Viveva lì, il roulotte viveva come un cane, i figli ce l'hanno buttato fuori. Ma non ce l'hai qui, in Viale Portosole, così quel pezzo di terreno. E appunto per quello, è tutto abbandonato, già l'hai visto, anche vicino a casa tua è tutto abbandonato, non ti fanno più fare nulla, è pericoloso, capito, per la questione con quello che è successo a Olbia, non ti fanno fare nulla, niente, hai capito, se tu vai lì a piantare cose del genere, vengono i vigili urbani e ti buttano subito fuori, perché è pericoloso, in caso di temporale ci può rimanere secco, tu capito. E neanche a venderla a qualche impresa, non so. Non puoi costruire qua, puoi costruire dalla parte tua, dove c'è la ferrovia, lì poi si può costruire. Dovevano costruire villette, non hanno costruito, tutto bloccato. Adesso vediamo cosa deciderà alle prossime elezioni che ci metteranno. Amico Campani, io sì, non ne va. E come un amico mio ce l'ha un uribezzo. Aspetta. Antone. Dimmi. Ascolta. Dove c'è quel terreno che ogni tanto lo puliscono? Dove c'è quella casa tutta rossa là, diciamo? Alla presenta. E quella è delle... A fianco a quella delle suore. Quello lì è di Peri, in pratica sono 11 figli, vai e cercali a uno a uno. Perché siccome c'è una glottovizia e poi parente mio ha piantato via, lo sai, in fondo però. Quello lì è parente di lui, quello che pianta, che avrai un bel figlio. E non ho più visto nessuno io, la verità, piantando lì. Poi dove c'è quel caseggiato vecchio, già ho capito, quello vale un sacco di soldi, quel caseggiato, mi è ristrutturato. Solo che nessuno ha fatto più niente, tutto bloccato, non puoi fare nulla, non puoi toccare nulla. Hai capito? Puoi solo ristrutturare, farla come la prima e basta. Poi non ti puoi più allargare per niente. Tutto bloccato, hanno fatto tutto un casino, piano che hanno fatto il comune di Sassari, ognuno per i fatti suoi. Beh, sai come si poteva fare una volta? Quando c'era Rizzu, allora sì, che lui ha costruito, e quindi si poteva fare quello che volevi, per dire, costruire anche una palazzina di 2 o 3 piani, non ti diceva niente nessuno, perché allora non c'era il pericolo gli allagamenti delle foglie, capito? Allora quando pioveva, sì, si allagava appena appena, ma non succedeva niente. Dopo quello che è successo a Olbia, è tutto bloccato, non puoi fare nulla. No, ma infatti questa amica mia, il fratello, perché le vette non si conoscono, non so quanto vuole andare a parlare nuova, là, diciamo, sempre lo stesso punto di lì, però parla tutta nuova, non lo so. Però in fondo, quel parente mio lo pianta tutto. Ti manco, ma già pianta. A chi vi dà pure un pezzo, non lo so, per tutto sarà quello santo. Perché ne aveva anche un pezzo dove c'è il ponticello di Sant'Orsola. Lì, quello lì. E lì piantava tanti anni fa. Poi non lo so se l'ha venduto quello. Guarda, quando c'era Babbo Vivo piantavano tutti di lì. Poi a uno li hanno fatti scomparire, addirittura... Si è notato bene, dopo la bertellina della parte legata a Celi, lì c'era uno che piantava, beh l'hanno buttato fuori quelli del comune. Allora se ti ricordi bene sono entrati i roulotte, gli zingari, si sono agganciati alla luce elettrica, all'acqua, e dopo quasi sette mesi se ne accorti, il padrone ce l'ha buttato fuori. Già me lo ricordo quando c'erano gli zingari, ce li aveva buttati fuori. Poi... Ma non è di lì, l'ha fatto, ma lui sta dicendo quell'altro che c'era lì. Poi era ridurra da tre, c'erano ammacciati in mezzo a un gallizzo e si era ridurra da fuori pura. Te lo sto dicendo, non puoi fare niente. Proprio nulla puoi fare, capito? No... è tutto bloccato, finché adesso non cambierà qualche cosa, speriamo che cambi il sindaco e proponga qualcosa di nuovo, perché non puoi lasciare gli orti così, capito? Prima era pieno di orti e la gente lavorava, adesso invece con quella scusa lì che in pratica è pericoloso, in caso di pioggia che si allaga tutto non ti fanno fare niente, capito? Speriamo che sistemino questo cavolo di fognature, o le tappano, non lo so. Ma vedremo un poco, che poi qua anche se le tappe è peggio. Si è notata Olbia, anzi non Olbia, fuori, ti ricordi che c'era quella, avevano tappato, c'era questo villone, è entrata tutta l'acqua dentro casa sua e erano morte due persone in Alta Italia, e quindi è pericoloso anche quello, non puoi manco tapparle. E pure dico, Raimondo si chiama, più in fondo si l'ha piantato e si la vende pure a Roma. Se l'ha tutto piantato, si l'ha pulito, disugante, si l'ha... lo pulisce anche quell'altro, che c'ha l'altro pezzo del terreno. E si l'ha tutto piantato. Avrà l'ordine allora qui, perché poi Raimondo quella roba la vende lì al mercato. Già ho capito chi è Raimondo, è quello che abita di fronte alla villetta. Raimondo è anziano, è Manuel, però un pezzo adesso ultimamente se l'ha coltivato, ne aveva di urti una marea. E piantava e vendeva, portava al mercato all'ingrosso. Quando c'era la moglie, aveva si nato coltivando un pezzo. Già ho capito che Raimondo rimane prima di dove sono io, prima di arrivare al mio terreno. C'è il terreno di un tipo, di un assessore, c'è. Prima quello di arrivare dall'assessore c'è lui, che ho capito che stai dicendo. Rimane proprio di fronte a una villa, c'è una villa di fronte a lui, dove c'è l'acqua della sorgente di Fontanazza, e gli passa proprio a fianco a questa villa qua, e c'è un vascone, e lui innaffia da lì, capito? Quello è il parente di mia moglie, già lo conosco bene io, prima veniva sempre da noi in campagna. Sì, di Cademane, di fronte al passeggio, quello dei mobili e dei giocattoli, cosa facevano Lo Ah, di fronte a quello che vende i mobili e i giocattoli rimane. Passeggio, cosa si chiama? Boh, allora un altro Raimondo, io conoscevo un Raimondo, aspetta il telefono, no, mi sembrava il telefono. Allora un altro Raimondo dovrebbe essere, a meno che non ci avesse due onde, uno di lì, uno su, più su, questo non te lo so dire. Comunque c'era uno che adesso non lo sta più, non lo sta più usando come terreno per coltivarlo, proprio di fronte alla villetta, capito? Se tu guardi i vari produttori, c'è una villetta in piena curva, c'è, e lui scendeva da lì e saliva da lì. Infatti un giorno c'era una motocarrozzella verde e l'avevano messo sotto. Era stato molto male, era stato, aveva avuto un incidente lui uscendo da lì, perché in piena curva non ti vedono. C'aveva una moto a carrozzella lui, tanti anni fa. Poi c'aveva la macchina. Ma vai a piedi. E quando non lo so se se ne porta al mercato di quella verdura che ci ha coltivato. A meno che non si baga una moto e ce la butta con la moto o qualche furgoncino, però ce l'ha proprio dove c'è la curva della presenza. Lui quella palazzina che si chiama passeggio dei mobili e quello dei giocattoli. E qua all'incrocio alla rotatoria là, lì ce l'ha. E di fronte ce l'ha anche quel pezzo di fronte. E oggi già ne aveva parecchi questo, se ne ha anche venduto. Sì. Anche quello di Sant'Orsola se ne aveva venduto, proprio quello dove c'è il ponticello. Già ho capito, già. Già ho compreso queste cose, a che mondo sta dicendo, già ho capito, già lo conosco. Se non sbaglio c'ha gli occhiali. Gli occhiali che non lo so, comunque vedo quanto me era molto la moglie giovane, più era molto il figlio e lei lui mi sa che si veda con la figlia adesso, però non lo so se c'è con la figlia, capito? Perché vede lì ogni tanto e quindi ogni tanto è giusta. Vabbè, cosa devo fare? Ha lavorato tutta la vita in quegli otti, cosa devo fare? Anche Babbo beveva il vino e cose, scendevano i colleghi, gli faceva la roba gratis, bevevano insieme a loro e poi se ne andavano, figurati. Poi arrivavano quelli dell'Alt, quando Babbo non c'era, entravano negli orti e ci passavano i primi orti che c'erano, si facevano la verdura, hai capito, gli autisti dell'Alt, ma l'Uffi no. Già lo so già che Raimondo ha lavorato sempre, adesso sta sempre lavorando, poveraccio, ma io vado a vedere questi voti, mamma mia, guarda. Vabbè, però intanto questo si dà sempre che fa, pure si vigi, mi ha dato, cazzo no. A quell'età cosa vuoi che gli faccia? Non gli fa niente, no? Anzi, gli fa anche bene qualcosa ogni tanto. Quando aveva minimo 70 anni, se non di più pure, va. Forse una valacca, che cosa di più? Sì. Di più di 70 anni, ha. Magari. Sta tessuto. Sta, usa lì la tuta. Magari si intende meglio, quando li dai venni e lasciati viseranni tranquillamente. Fate bene. Lo sai quanto è brutto lavare la roba, la verdura di mattina presto quando c'è il ghiaccio, in via del Porto Torres? Sai quante volte lavavo io la roba ghiaccia, i finocchi, la babbo faceva 100 mazzi di finocchi, a lavarli tutti in mezzo all'acqua congelata. Ci scendevo io e mio padre ogni mattina, io me l'ho fatto il culo, me l'ho fatto in quella campagna. E vada, se la prende in culo, se la prende, no? Tanto non ci ho guadagnato niente, hai capito? Perché Babbo compiti 3.000 euro te la prendono, perché non c'è passaggio per lei, perché Babbo quando hanno fatto la fogna nuova non gli ha detto di fare il ponticello in cemento armato per passarci la macchina per arrivare fino al terreno suo, gli ha detto di fare solo il ponticello in legno e basta per passarci a piedi, hai capito? E si è sbattuto. Poi dopo che hanno fatto quella modifica del passaggio per la fogna, dalla vita di Cagliari, dopo che sono finiti i soldi del comune, ha fallito. E tuttora è così, è pericoloso quella fognatura, perché se dovesse piovere a Sassari, ma molto, molto, molto, molto, lì si allaga tutto via le Polostrose, fino alla Bertellina. Se ne mangiato le vinagri, l'ha visto, fanno schifo. Lo so che fanno schifo. Quando io ho mandato le fotografie al comune, mi hanno detto, dice, ve dovete arrangiare voi, che siete proprietari, capita a pulire tutto il coso del comune, non è che assumono personale, no? Siamo noi proprietari, quindi dobbiamo pulire noi, secondo la testa loro, capito? Sì, io lo pulisco, quando tu mi assicuri che non mi inondi di me che hanno caso di fiducia. Dunque, quando io sono sicuro che tu, se non mi si allaga la campagna della merda, della fogna di Sassari, allora è morbido. Scusami, ma non ho fatto bene di Sassari. Sì, io, uno di Sassari avevano fatto vedere a Bibbio. Che dice quando piove si allaga. Ah, già me lo ricordo. E per quello poi ha detto che fa... Ogni tanto lo pulisce, ma dopo quando fa tempo brutto... Allaga, allora me lo faccio vedere, sì. Tu dovresti vedere le lavatrici come scendono di lì, o lavatrici, allora ci buttavano di tutto, le lavatrici, i frigoriferi, tu dovresti vedere come scendevano fino a Porto Torres prima. Beh, se vogliava il babbo bersaglio, tanto se lo così che mi separava gli occhi, ma... Ma c'è te lavatrici che scendevano, mi chiedeva Mario Manser, che già l'ha visto anche lui davanti, non ci credeva. E tu aspetta che ha detto che sta piovendo, ho detto Mario, fa 5 minuti, ho detto le vedi lavatrici scendendo. Dovevi vedere come viaggiava, se ti metteva un canotto, arrivava vicino a Porto Torres, si arrivava, che poi quella fogna lì passa a San Giovanni, passa, figurati, e poi risale. Già lo so, già lo conosco quel canale lì, se ci dici io ci basta a Sant'Orsola, già lo gioco già. E la giovinceria, il vero, il botticello di Sant'Orsola, quel pezzo di orto, tutto allagato la giovinceria. Se ti ricordi, innaffiavano con la fogna, di tutto c'era nella fogna, detersivo, di tutto si passava, eppure non è morto mai nessuno. Ma certi finocchi, ma molto molto più grandi, sono così, pomodori, melanzane, si piantava, le fave addirittura erano alte, quasi un metro e venti erano alte. Figurati tu, come cresceva la roba, altro che concime era. Se adesso ti vedo innaffiando con la foglia ti metto in galera. Adesso non li puoi più innaffiare, urti con la foglia. Fatene poco poco da risciare subito. Non fa più troppi virus, troppi malanni. Così era. Grazie a quei periodi usavi di tutto per innaffiare, la fogna e innaffiavi bene, rivedere come cresceva la roba, altro che cosa era, dovevi vedere come innaffiava Gian Mario, quello che c'era di fronte, usava la fogna, ma c'è tipo modori che faceva allucinanti, grazie. Buoni, li lavavi con l'acqua normale dalla fontana. Poi pigliava e li vendeva al supermercato. Pomodori, cetrioli, fave, di tutto piantava questo. Io con babbo ci ho piantato anche crisantemi, non solo l'altro. Ma belli uscivano. Io una volta in campagna, vicino alla posta artistica, quando svuotavo l'acqua, una volta al mese, avevo piantato le angurie, i pomodori a grappolo, ma ragazzi sono usciti 20 maduri e per i bumati 20 gattusi. Io non li ho assaggiati, li avevo fatti assaggiare a mio cognato, e io capita che buono, io li leggo falati, perché lui non lo sapeva, dietro non ci andava mai e non l'aveva visto. E dico, tutte e verdure, amore, eh? Allora io non la sbagliato. E tutti mette a ridere, la gente comprava al coso, al mercato all'ingrosso con la roba così comprava, non se ne è mai accorta, eppure se la mangiavano, non è morto mai nessuno. Adesso è tutte le macchine che c'hanno in testa la gente, capito? Oramai devi innaffiare con l'acqua pulita, poi devi fare così, poi ci devi mettere il concime che vogliono loro. E poi in mezzo al concime c'è sempre merda, tu già lo sai, perché quando compri la cacca di gallina, secondo te cosa c'è? C'è di tutto, ci sono fertilizzanti, non è che c'è sempre la stessa mondezza, solo che non lo fanno apparire. E ti dico, è la ruglia, ruglia che sta zingando, è bumati, cadduci, cadduci, bagliani, bumati, gamona, bagliani. Poi che ce la faglia della gestione, la chi piantata da lì, dove andare giù? Mi andare di vicino alla vostra città, sono usciti dolci. E intanto prima usavano quello, usavano. Te lo sto dicendo, viene produttore, innaffiavano tutti così gli ortolani, tutti con l'acqua della fogna. Capito? Direttamente lassù. Dall'inizio che rimane verso il aspetta come si chiama quella zona dopo il ponte del Rosello rimane, tutti innaffiavano così, innaffiavano con l'acqua della fogna, c'è il canale sopra, c'era, ti arrivava l'acqua della fogna nera, nera puzzinosa, tu prendevi, innaffiavi tranquillo. Te ne fottevi le balle, te le fottevi, faceva altro prima. Ma te lo sai che hai conosci tutti tu? Una mattina entrava in un camposanto, nella parte vecchia, si faceva a bussoni, quelle nere, quei bussoni neri, grandi. Tutta la zera che veniva in un camposanto. Dopo si faceva le massetti, dopo si puliva. E via Pascola ci vendia la gente un cappuccio, ma è da grassa, amico. Beh, già lo credo. Capito, gufo? Ehi, aspetta che gli sto dicendo della zia del cimitero. E ci la vendia tutta, di una goccia che va via, che sta zia, bella bianca, grassa, grassa. E io non li ho mai pigliato. Tu vuoi dire, ma sono un bicio, all'apertura si entrava dentro con i buchi in busciacara e cominciava a tagliare a pirazzacchi. Ah, me lo si faceva i soldi, visto? Allora, chi c'ha Luca quando ne avrà comprato? A chi ci si buria in via Pascoli, buro, a Vendilla? No, Luca! Io non li comparavo, stava di io. Ah, non hai mai pigliato dai su tipo in via Pascoli? Dove c'erano le poste prima, si metteva lì. O se no vicino al supermercato, giù. Ehi, già lo so che stai dicendo. Poi c'ha capelli bianchi. Ehi, allora la zia che ci faceva da dentro un cappuzzato, io la beggiavo. Lui mi diceva di mia zia quando travagliavo da Marcetto. Oh. Io farò vince, chi mi ha le porte autonome. E quando ero dentro il camion con la gru, lo vedevo, no? Certo, spazia tutta la zia. Da mezzare i dubbi, quelle tombe che sono in terra. Tra quando mi dà le basta, no? Che non aveva ne pulito. E tra mezzo si spazia la zia, e poi c'era la vendita. Budina, aveva bisogno, cosa vuoi ti dica? Vuol dire che ne aveva bisogno. Via. Intanto stiamo facendo gli asparagi. Domani faccio un salto, domani quando vado in campagna. E poi se vado a cacciare mi faccio una passeggiata martedì. Ma se vai lì in quella zona di carica, dove ti ho detto io, non agate manco uno. Ci deve essere qualcuno che ci va presso presso, ma sicuramente qualcuno che abita lì. Sì, vabbè, sono una passeggiata, non è un problema. Ehi, prova, ma dove sali su e scendi nella stanca, lì vai. Sì, faccio la stanca. L'ultima volta che sono andato ne abbiamo due, tre, tutto tagliato io. Sono andato con Paoletta e Paoletta ne abbiamo due, due. Per anni passati. Poi sono riandato un'altra volta la matessa cosa, davvero mi sono più andata, ha detto chi sta bisogno di vedere, si la piglia da cozzimo e vi basta l'unia lì. Ci proviamo, tanto. Capito, proviamo, fatto. Io la frittata ce l'abbiamo fatta. No, a me mio genero mi ha detto che ce ne dovrebbero essere dalla parte sua, verso la zona della marcia della Vava. Lì è andato lui, l'anno scorso ne ha fatto un bel. Che scappa, ragazzi. Vabbè, mi assento, arrivo subito. E beh, Antone. Dimmi tutto. E non ci non è anche la spalla, zia. Oh, ma andava, non stava io se lo per andare a fare la spalla, figurati. Andava lì e trovava parecchi. E anche lì ce ne sono parecchi, già lo so. Ma tanti anni fa, vicino a campagna, veniva una marea di asparagi. Guarda, ti stancavi e te ne andavi perché già avevi le buste piene. Ti canto il ritracco di acculi. O se no non ve la gioca e c'ho vita. Si andavano per manco la buccia di una giovita e ne rigioca, non ve più nulla. Tutto arralpato, sai. L'ultimo periodo che stavo guidando ancora, scendendo in campagna, mi sono girato, era pieno di niente. Ha detto, cazzo, cosa avete? Tutti i sassari nuovi. Tutti lì vanno ormai. Cosa c'è, Tommy? Ti porto adesso subito, due minuti. Mi ha silenzio il cane, aspetta che lo porto giù a fare la pipì. Ah, lo senti? Vai, porta, non mi fa l'età accesa adesso. Vai, accendilo, poverina, mi sarà cupiente. Vai, porta, già sto finito. Già ci ho portato la presa, tanto dopo devo uscire, quindi me lo porto al centro storico. Faccio un giretto e poi salgo a casa. 5 minuti, porto il cane giù. Vai, scendilo, già sto qua, quando risale, chiama, già acceso. Cosa c'è? L'amico tuo c'ha la febbre, c'ha. Sua Marina gli ha messo la supposta stamattina. È vero. Ehi, a quella grossa grossa. Come piace a lui? Eia. Quella rizzo. C'è la febbre. Aspetta che mi sto ritirando il filo del telefono, che la sotto carica. E lui? La 27 accesa ce l'ha. Aspetta il telefono, no, aspetta. Mormito sì, bello bene. Bella bene. Hai bisogno di me? Di pepia. Anche quando vado via tu sei l'unica donna per me. Criticate i radioamatori, che siamo, perché io sono un radioamatore, criticate i radioamatori che siamo superbi, che siamo, ve l'avete tolta la frequenza, Manco ma non ve l'avrei data manco pagando per come la trattate. È tempo perso. E sorsizzare le lettere per sentire a voi. Mica siete obbligati a ascoltare qua, non siete obbligati, eh? Non siamo obbligati, però è modo da potersi comportare. Tutti siamo usciti dalla 27, ma è questo il modo di fare radio. La passione della radio è una cosa, fare pagliacci e fare tante cazzate è un'altra cosa. Ce n'è tanto posto per andare a fare gli stupidi. Io dico solo una cosa, pensa da fare radioamatori, poi quello che fanno gli altri, fregatevene. Poi se non vi piace quello che fanno gli altri, allora intervenite, no? Fate qualcosa, denunciate. Se denuncia me ne prendono anche le mutande. Cosa vuol dire? C'è la passione alla radio, si parla di passione alla radio. Puoi fare lo stupido e basta andare al circo per fare certe cose. La radio è radio, che sia fatta in un modo compatente, che sia fatto con un modo di SVL, che sia fatto in modo da CB, elogi, seri, educati, è un'altra cosa, è la radio, la passione, è la passione. Nonno, cioè sentire certe cose che fanno pena, perché oramai è traboccata la cosa, capito? È inutile che tu rispondi, tanto lo so chi sei. Ma non devi parlare così, l'elettronica, il modo di fare, cioè che cosa è questa? Oppure un dialogo, non è detto che tutti debbano essere appassionati e, appunto tale da poter gestire la radio in un certo modo, ma almeno che ci siano dei discorsi seri dove si possa entrare anche a discutere, ma non queste pagliacciate tipo queste cazzate, tutte queste gna gna gna, ma non è possibile, cioè manco i bambini a Pipilandia lo fanno. Ah, io non ho problemi a dirti chi sono, cioè non è che ci mancherebbe, io pago una tassa, no? Poi ognuno si comporta come vuole, vabbè, se tu la pensi così non c'è problema, ognuno si batte un po', poi se ci prendono anche le mutande basta farli venire, io già non ho niente da nascondere, perciò io dico sempre questo, vive e lascia vivere, tanto fai radio e vieni criticato, fai il pagliaccio e vieni criticato, e così al baracchino la stessa cosa, ti mettono la portante, cosa ci stai a fare in radio? Quello è fare in radio, la gente che disturba a fare radio quella, ma vabbè. Se fai radio non vieni criticato, non ti preoccupare, stare fuori viene sempre ben pulito se fai radio, io no, non sto dicendo che sei tu che stai facendo lo stupido, però certo io ho risposto a quello che sento, siccome la frequenza è vasta, non è bisogno che uno sia radioamatore per poter intervenire, cioè perché non c'entra niente se è radioamatore, il radioamatore non è nessuno, ma sono un appassionato di radio, uno che le piace la radio. È anche bello avere un certo comportamento, una certa etica nelle cose. Non poi tu, il discorso è che tu fai quello che vuoi e fino a un certo punto, siccome i problemi in Italia sono tanti, e oramai le comunicazioni non ne hanno più voglia di stare a venire a fare queste, ci sono cose più serie. Però appunto teniamola stretta, ottenetevela stretta in un certo modo finché la lasciano questa cosa, capito? È tutto lì, no? E cioè anch'io pago le tasse per la macchina, come le paghi tu, e alla fine cosa facciamo? Ce ne andiamo a correre sulla 131 contro mano, ma non ho capito. No, corre, vabbè, non c'è problema, io guarda, per quello che c'entro io, poco me ne frega. Il discorso si chiude qua. Perché io ho altro da fare, io entro così per ammazzare il tempo, poi ognuno dice la sua, ecco, spara cazzate, e cioè come io vi ascolto anche nelle frequenze radioamatoriali, ma non entro a dire che molte volte ci sono discorsi che non mi piacciono, prendo in giro canale, non sto lì a criticarvi, ecco, vabbè, comunque ciao, buona serata. Sì, ok, anche tu hai ragione, ce n'è, beh, in campo radioamatore ce n'è tanto, gente che la prende come la prende, però quello che ti voglio dire io, cioè sentire cose come ho sentito adesso, come sento, cioè non fa, ma non fa manco in campo radioamatoriale, ripeto, non è questione di essere radioamaturi, no, è questione di essere appassionati alla radio, cioè anzi radioamaturi, perché chi ha la patente è un operatore Marconi. Ed è un'altra cosa, poi il radioamatore, uno può essere radioamatore, un appassionato di radio anche delle FM per ascoltare Radio Venere, cioè è dato come generale, dunque va bene dai, già mi conosci, non ti preoccupare, dai. Ciao ciao, stammi bene, ti ripresenti che avevo rivolto a te, hai risposto tu Luca, ma accesa ce l'hai tu la 26? E 27 siete, grazie. No, ho detto poco fa, se ce la mi piace già tu la 26. No, io no. Luca non credo. Ah, ce l'ha spenta anche lui. Beh, sono tutti tutta rombata là. Beh. Ehi, la già accesa, ma non vedo un cane. Dall'una al 40 non vedo un'anima. Beh. Sì, già troppo di cui siamo noi. E purtroppo non ci vogliono neanche, grazie a cosa questi. Tutta San Paolo. Roba la macchina, non ti rubi di nuovo la Ferrari, per carità. Antonello c'era poco fa, farà Drugani, salgo subito. Ora male, è già mezz'ora. Beh, e ci avessi bene. Pompone, a ci sì. Pompone, è sceso giù col cane, mi sembra. Ehi, ma era poco fa, adesso salva subito. Beh. Sì, c'era anche Giuseppe, ma Giuseppe doveva fare cosa? Boh. Ebbene, la febbre è abbassata a te. Sì. Già sta passando. Solo che la sera salimi la febbre, misuratatela. Sì, io tutto sotto controllo. No, già un paio di giorni che non sale. Aspetta un attimo, rispondo al telefono. Ehi, Ebbene, Luca, perso ti sei! Aspetta, ho il telefono! Ehi, you! Ciao Marina! Grazie, a me stai dicendo! Vabbè! Luca sta parlando al telefono! Già lo so, Gian Maria sto chiamando! Ciao Marina! Ebbene, grazie! Ehi, Luca al telefono. Ho capito. Ma io capito. E Gian Maria ha sentito là? No, l'ho chiamato anche nella 27. Se noi parlate in campagna. Ehi, non credo, no. Tu? Che sia sceso in campagna. E allora è ancora addormentato. Avrà mangiato il truffo. Ed è appanzanato. Ah, sì. E allora, chissà tu cosa ha mangiato? E cosa vuoi che mangi? Avrà arrostito, boh. No, mi sembra che aveva orate, oggi. Oramai se tenni ai piatti forti. E poi la panza, così è. E allora, infatti gli avrà detto lo diabetologo. Signor Pina, lì è troppo rotondo. Addirittura rotondo. E allora, dici chi paria, chi si ballone, chi vola, ne grugge e stello. Già mai, ma sei tanto sì. Non ti risponde, no, chi va in bocca va una fetta di bandoro. E da poi va a rugare, c'è con le bollicine, ti pare che per il tempo rifondi a me. Ah, vai a mosso subito. Poi invece di entrare qui, fare una discussione, chiacchierare, boh. Chi proprio nuda è. Lui devi pregare per entrare, ma te le immagini. Il giorno allora già gli pesto i ditti già. Ebbene, glieli penso. Beh, allora mi vostro cruciferma, sciabili. Vediamo. Mosa. Namur. Eia, fai bene. E lu. Acceso là il 27. Io no. Io Mario non so. Luca è sparito, l'hanno sgridato ed è sparito. No, Gian Maria ha acceso adesso, nella 27. Ci stava grattando la pancia. A Luca! Ma ho preso sì a me. L'hai sentito? A chi? Luca! Vabbè, si aiuta. sente. Luca Montanaro, ci sei? E lui? Ehi, sulla 27 siamo. Un attimino che ha messo un attimo. Luca! Ehi. Non è 26. Ehi. E accendi, la cerca di Maria. Ehi, sta aspettando che entri Luca. Ah, e boh. Non lo sentite, non so se era lui poco fa. L'ho chiamato. Okay. Marina mi ha detto che era al telefono. Ah. Sarà ancora al telefono. Luca, ci sei? Dimmi. E beh, Luca, non la metti la 26. Ma perché senti lì adesso, mamma mia? Perché qui sentiamo a tutti, no? Che intendi, che non intendi. Tocca a te, buccia, è buccia. Ma poi rimane Luca in stand-by, però, capito? Ma se ieri o avanti ieri lo sta basando e ci va bene, senti va solo un rumorino e buh, dove aveva posizionato l'antenna nella finestra. Luca? Dimmi! Attento Luca! Beh, Luca! Luca Gufo! Vai a tenere il termometro! Fallo bene! Beh, Lu! Sì, che sono io, buonasera. E beh, Gio Marino. Sta. Per un volendo lascio per la gente c'era bloccata, La giusta canza pulita non c'era battuglio, è inzapparato, Ma, beh, non puoi fare niente per tagliarlo quel pezzo, visto che è così grande. Ma è già 3 o 4 volte che me l'ha fatto quest'inverno, quel pezzo. Infatti quando l'ho svoltato ho visto che la vite liquidale era bloccata e l'ho mossa a destra e a sinistra e ne è sceso due pezzi grossi, lunghi, ed è quello che blocca la ventola con i pezzi lunghi, capito? Non sono grossi, lunghi sono, allora eventualmente quando arriva al punto dove c'è la discesa lì si blocca, non passa nel buco, capito? E si blocca, allora si spegne, capito? E allora ho fatto così, l'ho controllato tutto, ne ho visto parecchi lunghi, li ho tagliati e ho visto che l'ho avviata di nuovo e già è partita. Ne ho preso pochi minuti fa. È proprio quel tipo di pelle te. Ti devi appintare ogni volta che la metti nel secchio a controllare se ce ne sono lunghi e tagliarli, no? Anche, mano a mano che scende, capito? Le ho controllate mano a mano che le butto, capito? Per cui, quel tipo così, l'altro tipo non me lo faceva, capito? Ho controllato, infatti non mi succedeva, invece questo tipo, adesso quando finisco questo tipo qua e prendo l'altro tipo che sono più aggrediti, più piccoli, perché le altre non me li faceva così, non mi si spegneva, capito? Però quest'anno questo tipo fa questo lavoro. Di calorie va bene, però ogni tanto si blocca, bisogna fare così, ogni tanto. E già in questi ferri già 3 volte si è bloccato. Però, effetto, già una cosa che si può fare facilmente, dai. Però, Giomari! Ma abbassami le voci, non c'è bisogno che ti gridi, Graziano. Parla piano, gatto, io mi sogni, gatta. Però tu quando vai a comprarlo di nuovo, glielo devi fare presente a quello, così quello lì lo dice a quello che lo produce. Evidentemente la macchina di quello avrà le lame mezzo partite e non lo trancia bene. Glielo devi dire tu a quello, così lui lo dice a quello dopo che glielo porta, capito? E così prendono provvedimenti della fabbrica dove lo preparano. Beh, se lo fa me lo farà qualche un altro, o magari ci sarà il tipo di stufa che ha le cose più grandi e non succede niente, riesce a buttare benissimo, o che lo spacca ma mentre che lo porta giù, capito? Vuol dire che cambierò, dai, tanto ce l'ho altri pochi sacchi, mi sembra sia 5-6 sacchi. Oh, quando consumo quello prendo un altro tipo, dai, quello di prima prendo, che con quello di prima non succedeva mai. Così, avanti signor Luca. Attimo. Ehi, vabbè, anche se tu ti compri l'altro, tu diglielo lo stesso, che quello lì ti fa questo difetto, cioè ti fa che quel pellette è così, non è tranciato bene, e mi c'è fa la stufa. E così loro prendono provvedimenti, anche se non va da te l'avrà fa pure la tagliente, lì c'è poco ma sicuro. Senz'altro. Luca invece non c'è problema, la stufa sua fa a cosa, un altro tipo di pellet, per cui la sua vediamo se c'è pa mai, vero Luca? E ci puoi contare. Cos'era già? Quella che brucia tutto, Luca. Bisogna anche risparmiare, all'età nostra bisogna anche risparmiare, magari tu già ne hai i soldi, per cui lo puoi usare quelle lì, grazie. Ma io non me lo posso permettere, capito? Allora bisogna fare come fa Luca, vai. Guarda che la mia non brucia tutto, ho detto, quella che c'ha Luca, perché tutto brucia, perché c'è quella che brucia tutto, che pure che c'è un ito. Ce ne sono anche che pone la legna a burro, 30 lassù, e la consumano ma stessi. Ma per un altro tipo di stufa quella. E lui ci butta i soldi da 100, da 50, da 500, e li brucia bene quelle di Luca. Già me l'ha detto, pure che ci dà un euro, scusi, pure che ci fonde tutto, mi ha detto. Spero lui. Al telefono ha detto che... Macello, per carità, va. Mi sento strano, non mi sa attacca dell'influenza, no. Speriamo di no. Da Luca si è andato, dice di la contagiata, a misura della breba, controlla. Infatti, dopo me la controllo, vediamo un po'. Speriamo di no. Già mi costa, allora, mi devo passare pure i figuri supposti. Bubu. Ma io sono allergico a quelle cose, capito? Sono allergico a quelle cose. Le iniezioni, ho paura, mi viene la febbre quando vedo l'ago per fare l'iniezione. Sì, infatti, tutte le volte che mi fanno le iniezioni io mi giro la faccia e non la voglio vedere nemmeno quando sta preparando tutto, capito? Mi viene la febbre di più. Ma paghisci per un cappuccio, di buono un cappuccio e non vedi nulla, e senti solo un lago. Atta, lago. Il dolore sento, non lago. E tutti questi anni di chissi, in tramuscolo, ti faccio un uovo. Vabbè, certo che... Meglio queste qua, con l'ago che avere le banane dietro. Forse è meglio la banana dietro, al manco non intende assai dolori. C'è del rigittorio. A me c'è la banana di mamma quando mi si attaccava. Mi si attaccava a pensare un dito e da poi mi mattini a rigiaffia, che quando si entrava si tornava a brincare pure, buh, chiudi la volta se ci dannate all'uretto. Pucci. Stiamo andando bene. È brutta questa influenza, è brutta veramente. Aspetta. Per mio figlio, ragazzo, che quasi per te così, capita, così. abometti, la bassa la prima a momenti che te l'aumenta, beh, sta a 39 quasi 40. Catta, ma di gola, diarrea e tante, buh, macello. Uia, per carità. Mica il televisore l'ha fatto vedere, due che ti va. Tutta l'Italia è influenzata. Lo so con quanta gente vede, tutti cucati ancora con la prima. L'ha fatto vedere anche, l'ha pulito. E stava consigliando che non si è fatto lì il vaccino, a farsi il vaccino. E ha detto tutte le categorie che la dovrebbero fare ogni anno. Marai, non ti credimi. Mica a me, nonostante che ho fatto il vaccino, e non chiedimi, già te la menti via. Beh, magari ci sarà quelle persone che la prende più leggera, quelle invece che la prende tutta completa. Io mi auguro di non prenderle. Mamma mia, per carità, cazzo, uia, se no è chi dà ragione, cazzo. E quando è tra voi assisti vivo Gesù Cristo, ma tra voi, vabbè, 3 o 4 anni fa, avevo fatto anche il vaccino, chi mi ha preso, cazzo, prima ho preso 20 antibiotici, e non mi passa. Allora, ritorno a andare, mi ha ordinato le iniezioni, altre 20 o 24, me ne ricordo quante erano, e ho fatto 20 iniezioni, e non mi è passato. Boh, allora, dovevo fare una visita all'elettrocardiogramma, dovevo fare, lì a Conti. Ma visto che ero sempre con questa tosse, un po' con la temperatura, dice, ma che pastiglia sta prendendo, mi ha fatto? L'abbiamo fatto vedere la scatola perché c'avevamo, queste tutte le pastiglie che prendevo. E in mezzo c'era questa, quella dell'antibiotico, cioè che mi ha dato, dopo l'iniezione, mi ha dato altri 20 antibiotici. Dice, guarda, da oggi queste qua non le prenda più. Beh, lo sai che la sera mi sentivo bene e dal giorno sono stato tranquillo e mi è passata tutta. Adesso dimmi tu, l'antibiotico mi stava facendo più male che bene. Invece a me il veneario zoo, i medicini che mi aveva dato, eccetera, ossigeno, ed ero sempre un attesa. Fino a giudizio mi ha dato l'antibiotico, ne ho preso 4, no 5 ce n'era nella scatola. Me ne ho preso 5 e mi è passato subito. Ed è una via, io so mangiare sera, e pastiglie, e ghisto, e ghisto. E invece con l'aerosol me l'ha, ma con l'antibiotico me l'ha passato. Fate va. Io mi la giovinato una staccaturetta e me la giubiliata in farmacia. E ce l'ho in casa, mi bicicletta e mi biglio subito vista. Ma chi ho? Ma anche a me mi ha ordinato a fare l'aerosol. Infatti ho preso qua la farmacia, 85 euro l'ho pagata, la macchinetta nuova, ce l'ho, ne avevo un'altra, però dice che quella non andava bene, allora sono andato in farmacia, 85 euro l'ho pagata, e ci ho fatto anche un po' di tessere, facevo anche l'aerosol, capito, più l'antibiotici. Ti dico, sono stato, più di un mese sono stato, grazie, più di un mese, non mi voleva passare sulla maniera, da quando non ho preso quell'antibiotico, grazie a Dio, sono tranquillo. C'era anche io la macchinetta nuova, che l'altra mi si era impacciata, perché io ogni tanto lo devo fare, me lo dice il plumologo. Quando vado al controllo mi dice, fai per 10 giorni l'aerosol, poi sospendi 20 giorni e ne fai altri 10 giorni. E io vi la giù, quella la uso spesso, io ho anche le medicine. Adesso non le sto facendo, però l'ho fatto sino ultimamente. Già, Giuda, però ci vuole anche l'antibiotico, passano a me. A chi, specialmente a me, che io sono, come ti dici, io ce l'ho cronica e dunque è per quello che a me mi bisseggia subito. Beh sì, c'è tante patologie, grazie a perché ho fatto anche dell'ossigeno che c'hai, caspita, è un casotto con l'influenza, è un casotto veramente. Forse anche all'età mia, non lo so, forse all'età, tutte le cose si attaccano più. Con la diabete è un macello, magari tu sai benissimo che quando ti attacca la cosa sei uno diabetico, ritarda di più a uscirne, anche quando ti fa un taglio, no? Uno che è diabetico ritarda a guarire, e così anche tante altre patologie, capito com'è la faccenda? La vecchiaia carogna, grazie. Altri 10 ne faccio 80 io, 80 anni faccio il 10 febbraio. Figurati. Già lo so, a me me l'aveva detto, caspita, lei è diabetica, forte pure, passato direttamente all'insulina. E io non so cosa ne sapevo che ero diabetico. Però a me mi è venuto tutto a un colpo, mi era avvisato che va via sempre i sedi. E allora ho fatto la visita e mi ha detto che ero diabetica e mi ha posto direttamente l'insulina, 4 insuline, né pastiglia né nuda, ma con punto mazzo mi è nato battito. Ma dite da quando è diabetica, cosa ne so qui? Che mi viene questa settimana, un 2 mesi. Dico, lei va a tambullare e va giù sempre i sedi, limonate sempre i sedi. E allora per quello ho fatto la visita. E mi aveva detto che era diabetico, e poi mi aveva detto, occhio perché la diabetica... Beh, la batteria è partita, là, in attesa, vediamo un po' se Luca è rientrato, Luca? Al telefono era, e mi aveva detto così che la diabete, sta attenta che arriva un sacco di malanni, in effetti ha ragione, anche da voi è abituato i malanni, mi sono subentrati, l'ossigeno, e la sorpolosi, e chi dove chi dà, per carità. Quello ci sono tante patologie in mezzo, infatti la diabete crea tante difficoltà alla persona, e certe volte noi ne abusiamo e la questione va, invece meglio la peggiora, però, non lo so. La mia è senz'altro di vecchiaia, e poi quando in quel periodo della campagna, c'era sempre in campagna, che era un tempo della frutta, roba d'ossi, più ne mangiava più mi piazia, e quella è arrivata a un certo punto, e mi sembra che avevo una 60 anni, da un tratto. La domenica sera non avevo voglia di mangiare, mi sentivo tutto strano, mi veniva la voglia di rivedere, e domani la mattina così mi sentivo strano, tutto moscio, allora per mio figlio mi ha detto, dice, aiuto, vieni con me, vieni con me, mi sta portando a pronto soccorso. E pronto soccorso, prima mi ha misurato la glicemia e ce l'aveva 500 rotti, ce l'avevo, immediatamente. Poi ha telefonato a un'autoressa lì al palazzo del fianco della strada civile, che niente meno era un'amica di mia figlia, che lavorava nello stesso reparto, e già mi ha riconosciuto subito, ma tutta la sera mi ha fatto la curva da carico, e tutto, da voi mi ha fatto il travaglio, il muro di rubuzzo, con il rubuzzo, grazie a, anche quello mi ha fatto ogni dolore, e dopo mi ha detto, dice, lei è diabetico, così, mi ha fatto tutto, mi ha scritto tutto quanto, Dalla volta sono stato diabetico anch'io, capito? La diabete è lunga, la tua è diabete d'anzianità. Per lo più agli anziani a una certa età gli viene la diabete. No, a tutti, ma insomma la maggior parte sì. Infatti non che Sardegna è il più, la Sardegna è il più dove ci sono più diabetici dei punti in Italia, diciamo, il continente. In Sardegna ce ne sono di più. Sì, l'ho sentito quel particolare, l'ho sentito, che in Sardegna in forma la popolazione la più che la prende la diabete, capito? Ok, un attimino che hanno suonato, grazie. Già sono qua. Luca, grazie. C'è gente, dai, rientro magari più tardi. Vabbè, già sono venuto. Ok. Luca! Eia! Bene, non c'è! No, non c'è, perché sei stato. C'è il trattatore nella 27, Luca! Eiu! Luca! Eiu! Luca, non c'è acceso la 27! No! E accendila! Luca, ci sei? Allora.